situazione, prima di cambiare direzione, dopo un'accurata riflessione, tre però chissà d'ore non so, valuto ogni circostanza esterna che possa influenzare le mie scelte, in mancanza di un'alternativa, forse si potrebbe, sai però, transito in un'altra dimensione che mi tiene fuori da ogni dubbio, da ogni velo, in ogni circostanza. Analizzo i rischi percorrendo ogni direzione prima di azzardare una qualsiasi decisione. Quando corro il recito una parte, sofferrare il volo ogni occasione, ma è giusto che ci pensi ancora un po', è giusto che ci pensi ancora un po', ma è giusto che ci pensi ancora un po'. Studio attentamente ogni mossa ragionando sui motivi che mi spingono a determinate scelte, valuto circostanza al centro di ogni punto, esaminando alternative e soluzioni a me proposte. Soluzione alle proposte.